Quando la notte è finita, sembra tutto cadere. Nei ricordi del cielo, tra i colori di un velo, labile come neve. Ascoltami quando ti dico che stasera qualcuno pagherà, bagnando di lacrime la sedia, lacrime di falsità. Sono sicuro che i miei motivi riusciranno a calmarmi il fiato. Nessuna parola superflua deciso al fine, nessuno scherzo giocato. Provo e riprovo contando le scale, chiamato dal suono di un cellulare, ma quello che vidi davanti avrebbe mosso anche i santi. Rimasi tremante, fermo di sasso, lo sguardo fisso, il sudore di ghiaccio. Amico mio, provai a lasciarla quella sera, ma la sua gonna quasi non esisteva. Sembra tutto cadere nei ricordi del cielo, tra i colori di un velo, labile come neve.